Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo sesto, parte prima. Bonneau sfoga i suoi nervi sull'agente Garnier. Dieudonné paga per gli altri, Berillon si mette gli occhiali. Édouard Carouy era dunque provvisoriamente fuori circolazione. Octave gli chiese se non voleva che Jean andasse a curarlo. Rifiutò recisamente. Jean aveva passato un mese tra le grinfie della polizia, non aveva dubbi che fosse pedinata. Che restasse con l'Orulò, che ci stava bene, non sarebbe certo andato a cercarla. Del resto, cominciava a stancarsi delle sue perpetue geremiadi e del berciare del suo figlio. Non aveva bisogno di nessuno che si occupasse della sua bua. Effettivamente, due volte al giorno l'Ercole si rifasciava da solo il medicamento, tenendo tra i denti l'estremità di una fascia Velpeau comprata da Jules. Ma i fondi erano in via di esaurimento. Le disavventure belghe e olandesi erano costate care, bisognava fare qualcosa. Raymond, ieri, così esitante, era il più scatenato. Senza pietà, proclamava. Senza quartiere, la guerra totale. La sua decisione aveva qualcosa di eroico. La polizia forse conosceva vagamente i suoi connotati, ma non sapeva nient'altro di lui. Avrebbe ancora potuto fuggire. Con facilità. Tra le diverse soluzioni possibili prevalevano le proposte di Monnier sul mezzogiorno francese, regione ancora inesplorata che sarebbe stata, si sperava, più propizia del nord. De Boe, di ritorno da Losanna, da cui era stato espulso per il tentativo di sabotaggio, aveva ricevuto delle notizie del loro amico Monnier. Gli aveva indicato per lettera un fattorino d'incassi del banco di sconto facile da svaligiare, purché si usasse lo stesso metodo di Rue Ordener. Lo stesso De Boe era pronto ad accompagnare il gruppo. Era evoluto dal tempo del Revolté e nella direzione giusta. A forza di vedersi sistematicamente perseguitato per le sue idee, a forza di vedersi rifiutare il lavoro da tutti, sebbene forse un eccellente tipografo, il suo malcontento era notevolmente aumentato. E questo tanto più perché, figlio di alcolizzati, aveva avuto la fortuna di sfuggire a questa tara e l'energia di proseguire gli studi superiori. Essere diplomato, passare per un buon professionista e trovarsi ridotto alla disoccupazione per il terrore che ispirava ai borghesi. La bandiera nera era troppo. Bisognava ben mangiare, bisognava soprattutto provvedere alla nonna, la buona donna di cui era il solo sostegno. Che cosa poteva fare d'altro, dato che la società gli rifiutava il pane se non rubare? Si lanciò da disperato nell'avventura, alla prima occasione. Fu un'esperienza breve. Monnier segnalò per lettera l'arrivo a Parigi in automobile di un industriale di Béziers, Malbec. Indicò il suo domicilio parigino, impadronirsi della vettura per Jules, Raymond, Octave e De Boe fu un gioco da ragazzi. Il furto fu commissionato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio. Ci si mise subito in viaggio per Nîmes, naso al vento e piccole tappe. Ahimè, una volta di più la meccanica tradì. Un po' prima di Arnay, le due, tra Salieu e Chalon-Marné, il 22 la torpedo si fermò. Continuare la spedizione sembrò aleatorio. Ci si sarebbe dovuti procurare una nuova vettura a Nîmes. Non si era nemmeno sicuri che Monnier ne conoscesse una. Una corsa alle informazioni sarebbe stata forse necessaria, ma in un territorio straniero avrebbe preso necessariamente del tempo moltiplicando i rischi, data la fama di Garnier e di Bonneau. A testa bassa, la morte nell'anima, ci si rassegnò a tornare al punto di partenza, pensando al prossimo colpo previsto da Jules, quello di Saint-Mandé, che sarebbe stato, si era certi, più fruttuoso. fu la sola partecipazione diretta del tipografo belga a un'impresa illegale. Questo fallimento pietoso servì a raffreddare gli entusiasmi. Il mestiere di gangster, che consisteva nel marciare per chilometri lungo una strada nazionale fino alla prima stazione, in cui si saltava su un treno tremando al pensiero di risultare sospetti al controllore, mentre Garnier parlava di ammazzare tutti, gli parve singolarmente privo di romanticismo e notevolmente poco proficuo. Preferì cercare di vendere il materiale rubato alla fabbrica Firmonge di Romainville. La professione del ricettatore, senza entusiasmarlo granché, gli sembrava comunque meno pericolosa. Ritornò da sua nonna. La sera del ritorno, i tre altri soci divisero tristemente una minestra di legumi preparata da Octave. La vivacità della fiamminga gli mancava visibilmente. Quando lei era lì, di solito, dopo cena, andava a sedersi sulle sue ginocchia e la vita sembrava bella. Non faceva mai domande. Non lo giudicava. Octave accettava l'omaggio delle sue carezze con la dignità di un signore, sicuro del suo diritto. Appoggiava la mano da proprietario sul sedere voluttuoso della compagna. Allora lei rideva in modo provocante, il petto palpitante, la testa all'indietro. I farabutti. Come la tratteranno a Saint-Lazare in mezzo alle prostitute, lei che non aveva fatto niente. Jules partì di buon'ora. Da parte sua, improvvisamente si era messo a pensare a Judith e alle tenere serate della Guillotière. Si aggirò a lungo nei dintorni delle porte della città, la testa in fiamme, un selvaggio in libertà, affannato di vendetta, senza in tasca nemmeno di che pagarsi una puttana. Erano più delle 2 di notte quando rincassò a Quillancourt. Caroui era scomparso, senza dubbi aveva raggiunto un altro nascondiglio, conosciuto solo da lui da qualche parte sulla strada maestra. A quell'ora Raymond si rigirava da tempo nel letto, divorato da una solitudine cui non avevano potuto rimedio 3 ore di lettura di Bakunin. Come sarebbe dolce poter discutere di scienza e di filosofia con qualcuno come Luisa, ad esempio. 2 giorni dopo, il 25 febbraio, bussava col batticuore alla porta di Dieudonné. Arrossì come un idiota quando Luisa aprì e andò a sedersi in un angolo senza dir niente. «C'è un telegramma per te», disse Eugene, porgendoglielo. «Veniva da Hall. Era firmato Aubertin, cioè Monnier. Questi, per imbrogliare ulteriormente la polizia, firmava con lo pseudonimo adottato da Eugene, come se fosse stato suo fratello. Il testo diceva: «Salute, mamma, va bene», il che significava: «L'esattore delle miniere d'argento di Hall attende di far conoscenza con le vostre Browning. Non hai qualche franco da prestarmi, per caso?» chiese Raimondo a Eugene. «Non abbiamo più un soldo», disse, afflitto il lorenese. «Pensavo appunto di tornare a Nancy e riprendere a lavorare. La luna di miele è finita, per quel che è durata», disse Luisa improvvisamente violenta. «Bisogna guadagnare denaro per vivere», disse Eugene dolcemente. «Sei nato pecora, pecora morirai», rispose lei. «Bisogna pensare all'avvenire di Jeannot. Non voglio che abbia la mia stessa infanzia. Tu hai sempre delle buone ragioni», esclamò lei. «Puoi anche trovare del lavoro qui. Là, con Bill, è più facile», disse lui pazientemente. «E poi è ormai molto tempo che non vedo mia madre. Molto bene, puoi andare, io resto». C'era lite in famiglia, dai Dieudonné. «Forse ho un modo per mettere a posto tutto», disse Raymond conciliante, e in termini velati spiegò al falegname che lui e gli amici progettavano qualche colpo di quelli buoni in provincia, senza rischio, senza violenza, affari d'oro. Perché non unirsi a loro? «Non mi piacciono molto queste cose», disse Eugene. Poi, sotto lo sguardo corrucciato di Louise, si immerse nei suoi pensieri. Raymond, colpito dal vedere questa coppia che amava tanto nei guai, fissò un appuntamento all'amico per l'indomani. Eugene promise di riflettere. «27 febbraio, le 2 del mattino. Jules, Octave e Raymond si impadronirono senza colpo ferire della macchina di Buisson, industriale di Saint-Mond, al 142 dell'Avenue de la République. Erano delle vecchie volpi ormai, e ciascuno compiva la sua parte di lavoro quasi automaticamente, senza che Bonneau avesse bisogno di dare un solo ordine. In linea di massima era lui ad occuparsi della serratura, mentre gli altri due stavano di guardia all'estremità della strada. Quando le porte furono aperte, un leggero fischio chiamò Octave, che aiutò Jules a spingere la macchina. Raymond aprì la strada stando allerta. Dopo 200 metri misero in marcia e filarono via, dimenticando Eugene. Questa volta la macchina è pesante. È una Delaunay Belleville come quella di Rouet-Ordener, ma di un modello diverso, una H6 di 15 cavalli vapore e 6 cilindri, di color grigio, una coupé di città immatricolata 878X8. L'autista è allo scoperto. Niente, né parabrezza, né tetto, né vetri laterali. Lo protegge dalle intemperie. L'immenso cofano divora la strada. A 3 metri davanti a lui Jules ha indossato il cappotto di pelliccia, il berretto con i paraorecchi e i grossi occhiali. Con le mani nude manovra il volante di legno, il cui asse, molto lungo, è quasi orizzontale. La grande barra verticale del cambio di velocità all'acceleratore, mentre i suoi due complici si lasciano andare a sogni di ricchezza e gli si ubriaca di velocità, a tal punto che attraversando Montereau urta un marciapiede. La vettura sbanda, Jules frena, innesta una marcia inferiore ma continua. Non per molto, l'asse della ruota è storto, impossibile procedere velocemente. Si ferma, 12 chilometri dopo, a Pont-sur-Yon. E i tre uomini aspettano l'apertura di un garage locale. Raymond borbotta frasi incoerenti sulla fusione che presto avverrà tra la scienza e le classi operaie, il giorno in cui la massa, divenuta completamente cosciente, non avrà più bisogno di capi, ma solo di organi esecutivi della sua azione cosciente. Garnier ha il volto dei giorni cattivi, la pelle tirata, le narici frementi. Non è il modo di lavorare, fulmina sbattendo la portiera. Con dei dilettanti non c'è niente da fare. Alludi a me? Chiede Jules con la sua voce glaciale, strizzando un po' gli occhi. Gand, Anversa, Amsterdam, Arnay-les-Deux. E adesso qui. Ogni volta si rompe la macchina. Non mi si toglierà dalla testa che non è normale. Vuoi dire che sono un cattivo autista? Non state a litigare, interviene Raymond, che esce dai suoi sogni rivoluzionari. Capita a tutti di sbagliare. Jules abbassa impercettibilmente le mani, come se stesse per metterle in tasca. Octave e lui si affrontano con lo sguardo, pronti a uccidersi. Il fantasma di Platano ondeggia vagamente davanti a loro, un cadavere anonimo sul ciglio di una strada, in seguito a una discussione tra soci. Apparentemente disteso, si interpone Raymond. Prende Bonneau per un braccio e lo spinge verso la macchina. «Non è poi una cosa terribile», dice. «Procediamo, scientificamente. Cosa c'è di loro?» Octave va a sedersi un po' più lontano, sul marciapiedi, a denti stretti, mentre Jules apre la cassa attrezzi sul predellino, si toglie il cappotto e comincia a smontare la ruota. Raymond va a chiacchierare con Octave. Alle 8 il garagista Dornot apre la porta, esamina l'asse con Bonneau. Il garagista non ha pezzi di ricambio, tutto quel che può fare è cercare di raddrizzare l'asse, ma i cuscinetti a sfera hanno preso un bel colpo. Mentre si mette al lavoro, Jules raggiunge i compagni. A mio parere, l'asse non può tenere per molto. Se si spacca nel massiccio centrale, allora, chiede Garnier, un po' aggressivo, allora propongo di avvisare Monnier che è andata a buca e si fa il notaio di Pontoise. È meno lontano. Logicamente la carretta dovrebbe resistere fin là. E se facci lecca, dopo di noi il diluvio, dice Raymond de Pontois, sei proprio tu, Octave, che ne hai parlato per primo. Ti ricordo che ho qualche notaio dietro di me, dice Jules. Notai di Lione, dice sdegnosamente Octave. Hanno le stesse macchine in periferia, dice conciliante Raymond. D'altronde non saremo troppi in quattro. Avevo dimenticato di dirvi che Eugene sarà senza dubbio partito. Perfetto, dice Jules. Gli ho lasciato la bolletta di consegna del mio materiale di ricambio. si potrà recuperarlo al solito deposito. Altrimenti c'è sempre il mio, dice Raymond. Perfetto, ripete Jules. Si va? Verso le 2 del pomeriggio la Delaunay supera a tutta andatura la porta di Tallien. Jules guida a ritmo infernale. Il litigio con Octave ha fatto smontare in lui la collera che gli è abituale. Scarica i nervi sulla vettura. Percorre l'Avenue des Gobelins a 75 all'ora. Un agente allibito si spolmona a fischiare e, vedendo che non si ferma, estrae il taccuino per stilare una contravvenzione per eccesso di velocità. In Rue de Rivoli, un'ortolana che attraversa la strada ostruisce il passaggio. Jules sterza, non riesce ad evitare il carretto e lo sbriciola, provocando una valanga di carote, di rape, di cavoli. Tra gli urli della folla, improvvisamente in scompiglio, infine si va a fermare all'angolo tra Rue des Dames e Rue Nollet. Garnier va a sedere senza dir parola a fianco di Jules e Raymond scende a chiedere a Madame Rollet, la gerente, se Aubertin, l'amico di Contesse, è in casa. È partito, non sa quando rientrerà. Raymond torna a sedersi. Si decide di aspettare un po', tanto non c'è niente di urgente da fare prima di notte. Ma i bambini si affollano intorno alla macchina. Prima sono intimiditi dal lusso della carrozzeria, poi si azzardano a toccarla, a fare domande a Jules, che finge di non sentirli. Poi arrivano gli adulti, le comari del quartiere, gli oziosi. Nessuno ha mai visto una limousine così lussuosa. Octave si pavoneggia piuttosto fiero, con una netta tendenza a prendersi per la regina d'Inghilterra. Jules tamburella spazientito sul volante. Raymond si china sul cornetto acustico. Non è prudente fermarsi ancora molto, dice. Jules non risponde, scende a girare la manovella e mette in moto tra lo strigolio dei pneumatici. Gli ammiratori di Octave hanno appena il tempo di scansarsi. In quarta, sfiorando i passanti, seminando il terrore al suo passaggio, l'invincibile Superman carica la folla nel tuono del motore a scoppio. Jules Bonneau attraversa Place Clichy e percorre Rue Amsterdam. Essi sono i giustizieri, gli scagliafulmini, i vendicatori. La Delaunay si lancia come una bomba, schiacciando con la sua potenza meccanica i piedi dei rassegnati. Sono le 19:45 quando sbucano in Place du Havre. Invece di girare a destra, il terrapieno centrale, munito di un poliziotto e di un lampione a gas, Jules va dritto, sfiora la giacca di un passante che lancia un grido di spavento, porta la mano alla bocca e cade svenuta. L'agente di polizia soffia nel suo fischietto fino a farsi scoppiare le vene della fronte. All'angolo di Rue du Havre appare in senso inverso un autobus della linea Saint-Germain-Montmartre. Malgrado una sterzata, la Delaunay si trova immobile contro il marciapiede. Il motore si blocca, l'autobus si allontana, non senza una sfilza di ingiurie del conduttore. L'agente Garnier fa i 100 metri. Vi insegnerò io, pirata, grida all'orecchio di Jules. I vostri documenti, subito, assassino. Il brav'uomo non sapeva di cogliere nel segno. Jules non apre bocca, fa segno a Octave che scende tranquillamente a girare la manovella e torna a sedersi. Il motore romba, per miracolo, data l'ora. La strada è quasi libera. Jules mette in moto con dolcezza, poi bruscamente spinge a fondo sull'acceleratore. L'agente ha il riflesso di saltare sul predellino. Si aggrappa alla spalliera del sedile, tiene duro. Allora il braccio di Octave si tende davanti al torace di Jules. Esplodono 3 colpi, uno nel cuore, 2 nel ventre. L'agente Garnier si piega, crolla, infine fulminato, ucciso. Da Octave Garnier, davanti al ristorante Garnier. Jules spinge al massimo la potenza dei cavalli a vapore. Per poco non investe un tramvai della linea Le Mouettes-Rouet-Taillebout. Si dirige verso Saint-Augustin, attraversa il boulevard Haussmann, si getta in Rue Tronchet, gira intorno alla Madeleine su 2 ruote, in fila, rombando Rue Royale, e si dilegua alla Concorde. Un soldato in bici, certo Schleicher, dando ascolto al suo coraggio, ha voluto seguirlo dalla Place du Havre. In Rue Royale ha desistito sull'orlo della crisi cardiaca. Due agenti di polizia, Lucy e Enaf, sono anch'essi accorsi al rumore degli spari. Hanno capito fulminamente il dramma. Avvistata una macchina sportiva parcheggiata davanti a un caffè, interpellato il proprietario Armand de Vossé e gli hanno intimato di lanciarsi all'inseguimento dei banditi in auto. Lo sportivo ha tergiversato, ottemperato con malagrazia alla richiesta e dopo 30 metri ha investito un passante, Mademoiselle Marie Chandon. L'inseguimento finisce lì. Jules, Octave e Raymond sono lontani. Il tentativo dei coraggiosi agenti avrà un epilogo imprevedibile. Marie Chandon, dopo vari mesi trascorsi all'ospedale, sporgerà querela contro il conduttore. E questa si ritorcerà contro Lucy e Enaf. Morrà di morte naturale, molti anni dopo, senza essere stata mai rimborsata. La questura respingerà instancabilmente la sua querela. Ore 21. I tre uomini hanno fermato la vettura sul ciglio di una strada deserta di periferia, tra Trappes e Saint-Cyr. Aspettare, dice Jules, non serve a niente. Un lungo silenzio seguì la sua osservazione. Poi viene presa una duplice decisione: rimandare il colpo di punto A all'indomani, il tempo di riposarsi e di recuperare gli attrezzi di lavoro. Poi trovare una soluzione per quei famosi titoli di Rouet Ordener, che sono sempre ad Amsterdam. Ma bisogna usare un intermediario. Nessuno dei tre può più assumersi il rischio di svolgere la trattativa scopertamente. Jules propone David Belloni, l'ex aiuto farmacista con cui ha lavorato a Lione. Non è una cattiva idea. Nascondono la vettura in un capannone abbandonato e tornano in treno a Parigi. Raymond ritrova senza difficoltà David in casa sul versante nord della Butte. Vi credevo in provincia, dice stupito. Si è forato, dice laconicamente Raymond. Un pneumatico? No, un poliziotto. David fischia tra i denti, con ammirazione. Raymond si pavoneggia. Rue du Havre, eravate voi? Mostra l'edizione speciale del Petit Parisien, che narra le peripezie dell'avventura. L'articolo fornisce un'interessante precisazione. La polizia pensa che l'autista sia lo stesso di Rouet Ordener. Raymond ripone il giornale giurando che non hanno ancora visto niente e propone l'affare all'anarchico. Questi accetta a condizione di tenere per sé, dati i rischi e le spese del viaggio a Amsterdam, i 2/3 del profitto. Raymond è costretto ad accettare, non ha scelta. David va a trovare Alilla Rodriguez, venditore ambulante anarchico che ha la fedina penale sporca. 10 condanne per oltraggio ai costumi, moneta falsa, porto d'armi e apologia dell'assassinio dell'imperatrice d'Austria. E gli chiede in prestito con interesse la somma necessaria per un'andata e ritorno in Olanda. Si rimette in cammino il mattino dopo. Qualche ora dopo l'arrivo di David Belloni a Amsterdam, alle 3 del mattino, nella notte tra il 28 e il 29 febbraio, la Delaunay dei banditi si fermava silenziosamente sulla Place de l'Hôtel de Ville di Pontoise. Jules, Octave e Raymond, muniti del loro materiale, si avvicinarono alla casa del signor Tintin, situata all'angolo di Rue Le Mercier. Una leggera bruma ovattava i contorni degli oggetti. Avrebbero auspicato un bell'acquazzone, ma non potevano aspettare ulteriormente. Dato che una chiave falsa non era riuscita ad aprire la porta principale dello studio, scalarono un muro del Rue Le Mercier e saltarono in un piccolo cortile, la cui porta posteriore non resistette a un grimaldello. A tastoni trovarono l'ufficio, spostarono la cassaforte nel modo più discreto che fu possibile. Stavano per far funzionare la fiamma ossidrica quando si sentì un rumore al primo piano. Era il notaio, risvegliato dal rumore, spalancava le finestre. I tre uomini trattennero il respiro. Un rumore di passi sulla piazza, un grido proveniente dal primo piano. Aiuto, aiuto, ci sono gli scassinatori! Un passante, Coquerel, aiuto panettiere nei dintorni, si fermò. Vengo, gridò. Con una spallata sfondò la porta d'ingresso. Subito Garnier estrasse il revolver e sparò due volte in direzione dell'intruso. Atterrito, il panettiere si appiattì contro il muro. Senza insistere, il trio filò via per l'uscita che Coquerel aveva a loro aperto. Octave si immobilizzò al centro della piazza e vuotò i caricatori della sua Browning su Coquerel e sul notaio, che dalla sua finestra sparacchiava coraggiosamente, lanciando grida da sgozzato. Una pallottola gli sfiorò le orecchie e spezzò l'armadio a specchi dietro di lui. Nel frattempo Raymond girava la manovella e Jules era seduto al volante. Il motore si era messo a ronzare. Octave sparò ancora tre colpi dal suo terzo revolver e corse a raggiungerli. Ancora una volta era andata male. Alle 6 del mattino fermarono dal Delaunay lungo un terreno abbandonato, vicino al cimitero di Saint-Denis, all'angolo tra Rue Edgar Quinet e Pierre Curie. Raymond raccolse dalla paglia, l'infiammò e bruciò il serbatoio di benzina. Poi se la diedero a gambe. Un'ora dopo, recandosi al lavoro, alcuni muratori scoprirono l'automobile che bruciava lentamente. Febbraio, ore 16. Juin continuava a vedersi rovesciare sul tavolo dell'ufficio una marea di lettere di denuncia. Sapeva che tre, forse quattro uomini avevano preso parte all'attentato di Rueil-Ordener. Tra di loro era sicuro della presenza di Garnier. Quella di Bonneau gli sembrava altamente probabile. Il terzo era un piccolo occhialuto. Quanto al quarto, una delle missive ricevute il 23 gennaio sembrava particolarmente probante. Diceva: secondo informazioni che circolano tra gli anarchici, l'assassino di Rueil-Ordener è un certo Eugène Dieudonné, originario di Nancy, dove forse è tornato dai genitori. Gli altri tre sono belgi, conosciuti col nome di Hortan, Raymond e De Boy. Senza dubbio, De Boy. C'è anche Bonneau, di Lione. Lo schedario centrale di Bertillon non aveva nulla sotto il nome di Dieudonné, che non era mai stato condannato, ma Juin sapeva, grazie alla perquisizione dell'anno precedente, che si trattava di un anarchico e lo faceva ricercare attivamente. Fu un caso che lo mise sulla pista, o piuttosto il risultato della pazienza con cui faceva spiare sistematicamente quelli che da vicino o da lontano avevano servito la bandiera nera. Come ogni altro luogo del genere, le idee libere in cui Raymond e Octave si guardarono bene dall'andare era sorvegliata. Per routine, alcuni ispettori pedinarono il tipografo Boucher che vi lavorava. Ciò non portò ad alcun risultato. Presero a seguire la sua donna, una sarta che frequentava anch'essa gli anarchici. Faceva visite particolarmente frequenti a una coppia misteriosa che abitava in una pensione per famiglia al 47 di Rouen-Nolay. Curiosi per natura, la mattina del 27 febbraio alcuni poliziotti travestiti da rappresentanti di commercio affittarono una camera vicina a quella della coppia. Si trovavano quindi sul posto quando Raymond aveva chiesto alla gerente se aveva visto Eugene. Un'ora dopo la partenza del trio Bonneau, Raymond, Garnier, che l'aveva scampata bella, arrivò la coppia di Donné in compagnia di un amico. Si chiusero in camera, poi l'amico uscì. L'ispettore Guillard lo lasciò andare fino a Piazza Clichy e là gli mise la mano sulla spalla. L'uomo tentò di afferrare il revolver, ma l'ispettore con gesto rapido lo immobilizzò, rovesciandogli la giacca e gli prese le due Browning. Al Quai des Orfèvres, il servizio antropometrico riconobbe immediatamente in lui Jean Adeline de Boe, tipografo anarchico, nato in Belgio a Anderlecht. Lo si incolpò in attesa di meglio, di vagabondaggio e di porto d'armi. Dopo la sua partenza, Eugene uscì a sua volta. Venne fermato all'angolo tra Rouen-Nolay e Rouen-des-Dames, con lo stesso procedimento. Non era armato, segno che non temeva niente. Lo si mise dentro, poi si andò in casa sua. Louise e la sarta, Madame Boucher, che erano lì, furono a loro volta arrestate. Si effettuò la perquisizione, trovando un paio di Browning, una mazza di caucciù, carte stradali indicanti gli itinerari che permettono di superare la frontiera al di fuori dei posti doganali, il famoso telegramma spedito da Hals firmato Aubertin. Salute mamma, va bene, che si impiegherà molto tempo a sapere se scritto dalla mano di Monnier, lo si saprà grazie a un quaderno di discorsi lasciato da questi a un ferroviere di nome Sarì, che lo ha ospitato e che sarà arrestato a sua volta insieme alla moglie. Due scontrini di deposito per la Gare du Nord, uno corrispondeva, lo si seppe un'ora dopo, a un'attrezzatura complessa da scassinatore, l'altro a una borsa per i ferri provenienti da Gand. Inoltre Eugene portava un colletto di camicia comprato all'Aia, altra città in cui i banditi erano stati segnalati. Tutto ciò gli sarebbe costato caro. Venne interrogata la gerente della pensione, Madame Rollet, sugli spostamenti dei suoi clienti. Raccontò tutto ciò che sapeva, come avesse conosciuto un aiuto farmacista, David, al tempo in cui era portinaia in Rouen-Saint-Lazare, come Comtesse, l'industriale di Belfort. Si fosse presentato a nome suo, come fosse partito il 20 dicembre, come David fosse tornato a prendere i suoi bagagli. Il 20 dicembre, vigilia dell'attentato di Rueil-Ordener, vennero mostrate delle foto. Riconobbe subito Bonneau in Comtesse. E voi dite che Aubertin è venuto da parte di Comtesse? Non ci sono più dubbi. Eugene è il quarto uomo. Juin ha ragione di essere soddisfatto di sé, si frega le mani. Poi, una dopo l'altra, gli giungono le notizie del dramma di Rueil de Havre e della fucilata di Pontoise. Prima che abbia potuto dire ai, il suo superiore, Xavier Guichard, lo convoca nel suo ufficio. Questi ha appena subito per una mezz'ora la barbetta corrucciata del questore Le Pen, che a sua volta ha ricevuto una terribile telefonata da Steg, ministro degli interni, cui sono state poste domande imbarazzanti dal presidente del Consiglio, che non resta indifferente alla satira dei canzonettisti sulla lamentevole inefficienza della polizia. Guichard, cuor di leone, dunque molto scontento, fa una ramanzina al suo subordinato. Si dice che Guichard abbia detto: Le Pen mi ha minacciato di farmi saltare. Se salto io, vi garantisco che saltate anche voi. Si dice anche che Juin sbatté la porta. In breve, il vicecapo della Sûreté, tornato nel suo ufficio, si rifà su Eugene. Si attacca al suo colpevole col coraggio della disperazione. Dopo tante false piste, ha bisogno di un successo. Eugene è in una cattiva posizione. Le Browning sono una realtà, lo riconosce. Idem le carte stradali. E il telegramma? Confessate che era un messaggio convenuto tra Monnier e voi per commettere gli scassi nel Gand. Mai sentito. Non negate. È stata trovata la vostra vettura abbandonata a Arnay-le-Duc il 22 febbraio. È assurdo. Ho ricevuto il telegramma il 25. Guardate il timbro postale. E gli scontrini di consegna sono di un amico. Chi? Non posso dirvi il nome. Troppo facile. E il colletto della camicia? Regalato da un amico. Che cosa hai fatto il 21 dicembre? Ero a Nancy da mia madre. Ho trascorso con lei le feste di Natale. Posso provarlo. Controlleremo. In attesa dei diversi indispensabili controlli, Gilbert, giudice istruttore incaricato dell'affare, fa chiamare Cabi, l'esattore di Rueil-Ordener. Si fanno indossare ai poliziotti abiti simili a quelli che i testimoni ricordano di aver visto, addosso ai banditi, in auto, e si mette Eugene in mezzo a loro. Cabi avanza, esita e si ferma davanti a Eugene. È lui, lo riconosco, dice con voce tremante. È lui che ha sparato su di me. Eugene alza tranquillamente le spalle. È un errore, sarà facile dimostrarlo. Libri ribelli. Libri ribelli.